Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E il programma andrà avanti fino alle ore 21:30, siamo in diretta qui da Udine. E ricordo che questa trasmissione viene condotta, cioè viene mandata avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi 27 giugno 2024 e andiamo ora all'ascolto di questa storica band dell'hardcore punk internazionale, band tuttora esistente, anzi credo che giri il mondo più adesso che 40 anni fa, anche più di 40 anni fa. Loro sono i Discharge e dal loro primo LP, che si chiamava Nothing, See Nothing, Say Nothing, ci ascoltiamo alcuni brani. sixth of a millisecond after the explosion, and at a distance of 60 miles, the light from the fireball of a single megaton thermonuclear device is 30 times brighter than the midday sun. This little boy has received severe retinal burn. Ecco, benvenute e benvenuti a tutti voi che siete in ascolto di questa puntata di Zardins Magnetics di stasera, giovedì 27 giugno 2024, come sempre in diretta, come ogni settimana, ogni giovedì sera. Andiamo un po' a vedere velocemente un sommario della puntata di stasera, dove io andrò, diciamo subito, fra poco, da Urman a presentarvi così un invito alla lettura di un articolo che si intitola Un porto, una città, una lotta, e sul numero 15 dei Giorni e le Notti. Successivamente ci sarà e ci saranno diversi, insomma, contributi relativi alla mobilitazione in atto contro, in particolare, la logistica di guerra nel nostro così, stato di riferimento, l'Italia, no? E, in particolare mi riferisco al blocco del porto di Genova, quindi sempre di porto e sempre di stato di guerra, di situazione di guerra parliamo. Ecco, questo fra pochi secondi, una manciata di secondi, lasciamo solo, ritorna un po' di musica per staccare. Eccoci di nuovo, quindi parleremo di questo articolo che trovate sul numero conclusivo della rivista anarchica I Giorni e le Notti, numero 15, appena uscito, giugno 2024. Vi leggo solo quattro righe dal risvolto, diciamo, dalla quarta di copertina. Le riviste vanno e vengono, a rimanere sono i giorni e le notti, nutriti di libertà, nella tensione anarchica, sui sentieri della rivolta e dell'utopia. Non rinunceremo mai alla nostra incredulità verso l'onnipotenza del visibile, alla testardaggine di piantare radici nel vento. La vita è troppo breve per non riempirla di sogni ardenti. Ecco, quindi così un appello a continuare, anche insomma oltre questa rivista, a continuare la lotta, e anche al di fuori di ogni, insomma, linea, di fuori di ogni, come si dice, programma, eccetera, insomma una rivendicazione di fare appello a quelle che sono la propria sensibilità, soprattutto, no? A quello che si sente e che spinge ad agire. Ecco, il compagno quindi, che con grandissima probabilità è Stecco, che aveva già scritto in precedenza su un articolo generale sul discorso marittimo, ecco, in precedenza era numero 11, non mi ricordo, circa 2 anni fa, ecco, mettiamo. ritorna su questo discorso di utilizzare una situazione, ecco, una situazione che lega la città al suo porto e al all'evento che è questa lotta contro il Green Pass, che è accaduto nel è partito insomma nel settembre 2021 a Trieste e ha raggiunto livelli di massa, a dir poco, insomma è stata un protagonismo insomma a livello di tutta Italia, ecco, tutta Italia guardava quello che succedeva a Trieste, perché davvero l'opposizione all'obbligo vaccinale, all'obbligo di questo infame passaporto è stata molto molto rilevante, la stragrande maggioranza dei triestini non ha accettato, ecco, di conseguire questo dispositivo digitale. La lotta contro il Green Pass funziona in questo articolo come la ricerca, ecco, un'indicazione, una ricerca di strumenti analitici, lui li chiama semilavorati, ecco, l'articolo fornisce dei semilavorati, lui li chiama, forse utili in futuro, nel senso che fa come mette a processo certi fatti apparentemente scollegati fra di loro, che sono successi in questa città tutto sommato anche particolare per vari aspetti, che magari i triestini danno per scontati, che magari fuori da Trieste non vengono percepiti, che sono, secondo me, caratteristica principale essere un centro fortemente urbanizzato, però che è privo di un retroterra, privo di un entroterra, diciamo, più che altro, in quanto appunto c'è questo confine imposto dai trattati di fine Seconda Guerra Mondiale, quindi è successo, insomma, annessi e connessi, che ha portato insomma a una particolare condizione di isolamento, ecco, nonostante che sia una città, come ho detto, insomma abbastanza grossa, ecco, per i parametri che ci sono in questa area dell'Italia, insomma nel nord-est, però essendo che il Friuli non è un riferimento per Trieste e viceversa, ecco, questo è il punto, ecco. Stiamo andando anche facendo un'eresia, cioè stiamo parlando di Trieste su Radio Onde Furlane, no? Questo qua è anche una cosa singolare, boh. No, nel senso che, pur essendo il compagno triestino, secondo me gli anni che ha passato, le esperienze che ha avuto lo portano ad avere una percezione sicuramente originale, ma anche distaccata, ma allo stesso tempo con cognizione di causa, ecco, delle cose. Tutto sommato naturalmente ignora tutto quello che c'è insomma fuori dalla città, che sarebbe anche giusto, ma sarebbe anche, però, ecco, ci riporta a questo aspetto che ho nominato prima. Ecco, volevo dire, semilavorati utili in futuro, lui dice questa cosa. Vi leggo la conclusione, vi leggo solo quattro righe, non penso di leggere, cioè è un invito alla lettura di questo articolo, non ve lo leggeremo in radio, ecco. Però almeno questo punto d'arrivo, ecco, del suo percorso lo vorrei leggere, ecco, senza adesso, magari poi vediamo un po' l'ipotesi, anche l'ipotesi di partenza, l'ipotesi di arrivo, due elementi di analisi, diciamo, locali, e sì, poi basta, ecco, poi vi lascio, perché ecco, anche da dire questo, che l'ultima parte, cioè la seconda parte, sono circa 15 pagine di questa parte che non tratteremo qui in radio, riguarda farsi un po' i conti, ecco, fra compagni e compagne, e vedere dove le cose sono andate bene, dove si poteva fare diverso. E siccome lui stesso anche dice: il nostro nemico ci osserva, ci scandaglia, ci tiene sotto, insomma, legge quello che scriviamo, noi naturalmente non diamo in pasto chi ci ascolta tutto quello che potrebbe, ecco, esporci anche le nostre, fra virgolette, debolezze. E quindi, se volete andarvi a vedere di cosa, insomma, le cose che verranno, sì, così esposte, riguardanti il discorso movimento, andate veramente a leggere I giorni e le notti numero 15. Allora, andiamo ad affrontare questo articolo, quindi, che dicevamo: un porto, una città, una lotta. Sottotitolo è Riflessioni sulla città di Trieste e sulla lotta contro l'obbligo vaccinale, il passaporto verde. Una cosa importante, aperta parentesi, che dico prima di dimenticarla: non è una rivista facilmente reperibile. Per diciamo, ottenerla, richiedere copie. Se ci ascoltate da qui, dai dintorni di Udine, Friuli, eccetera, insomma, se passate allo spazio autogestito via De Rubeis, noi la distribuiamo, abbiamo diverse copie. Altrimenti va fatta la richiesta al circolo Nave dei Folli a Rovereto. Nave dei Folli, via Santa Maria 35, Rovereto, o indirizzo mail nave dei folli @gmail.com. Dicevo di leggere un estratto, no? Allora, a un certo punto, scusate un momento, si sta esaminando, insomma, si sta, ecco, usando la prospettiva di un libro, per capire, insomma, Edizioni dell'Asino, quindi Goffredo Foffi e compagnia, del 2022, l'autore Andrea Bottalico, una ricerca sul discorso della logistica e sui porti, Le frontiere del mondo, viaggio nella filiera del container. E tra l'altro è stata fatta una presentazione al Conchetta, anche rintracciabile, insomma, la registrazione. Quindi, ecco, Andrea Bottalico ci spiega come il porto è una struttura che sta avendo un forte cambiamento nella sua disumanizzazione. La digitalizzazione in corso, i luoghi più progrediti in tal senso sono i porti del Nord Europa, di Rotterdam e Anversa, farà sì che queste aree così militarizzate saranno nel prossimo futuro sempre più esenti dal lavoro umano. La merce sarà sempre più invisibile, rinchiusa in queste scatole di metallo. Le control room, che gestiranno le enormi macchine robotizzate, saranno a disposizione di pochi tecnici, pochissimi umani avranno accesso a questi spazi. Il nuovo molo in costruzione a Trieste, il molo ottavo sarebbe, ha esattamente questa finalità. Questa innovazione non riguarda solamente il potenziamento del porto in quanto tale, ma si inserisce in una logica a lungo termine diffusa in vari ambiti del lavoro, del mondo del lavoro, dell'economia e dell'industria in generale. Potremmo perderci nei ragionamenti su costi, benefici e profitti, ma la questione è anche di classe. Il pericolo di future proteste dei lavoratori dovute a questi cambiamenti sarà praticamente da escludere, visto che il portuale è potenzialmente uno di quei mestieri a rischio di estinzione nel prossimo futuro. Questo avverrà in quei posti in cui questi enormi investimenti arrivano, ed essi arrivano dove il capitale sceglie di investire per competere. Che questo capitale sia privato o in forma pubblica cambia di poco le sue finalità. Quindi il porto è una macchina infernale, è l'immagine stessa del capitale globale, una citazione di questo libro sul mondo dei porti di Andrea Bottalico, una macchina infernale come tante altre strutture. Guarda caso, ad esempio i CPR, a parte i carceri, ma i CPR, oppure le fabbriche di armamenti, ad esempio. Sono partito da questo discorso, che è un po' la conclusione di questa prima parte dell'articolo, dove appunto si arriva un po' a tirare le fila. L'argomento di questo articolo è un grande cambiamento, insomma una grande mutazione strutturale a livello economico e sociale. Appunto si prende ad esempio l'esempio della città di Trieste e ci si chiede quali sono li chiamo io giocatori in questo cambiamento. Cioè ecco, facciamo un elenco: la croceristica, cioè la crociera, la manifattura, da dove escono questi colossi del mare, guarda caso sempre non distante, Monfalcone, annessi e connessi, insomma, adesso non apriamo ulteriori parentesi. La deindustrializzazione della città di Trieste, in una fattispecie molto importante è la chiusura dell'acciaieria della Ferriera, deindustrializzazione. La Ferriera, c'è anche la Varzila, anche questo è un processo di deindustrializzazione. La Varzila, per chi è distante, insomma, da dove trasmettiamo, è un colosso dell'ex Grandi Motori, ecco, era una fabbrica di propulsori navali enorme. E appunto già sarà una ventina d'anni fa l'ha presa questo multinazionale finlandese, adesso se ne sta disfando. La Ferriera è stata definitivamente chiusa, questa, diciamo, acciaieria, è stato spento il forno, è stato già smobilitato, è stato demolito, sono stati fatti festeggiamenti, sembra era già 2020, potrebbe essere. E al posto della Ferriera, cioè nell'area Ferriera, che tra l'altro è un'area, mi ricordo da discussioni varie, che era un'area afferente comunque alla zona franca del porto, verrà sviluppato questo nuovo polo logistico, chiamiamolo, che è il Molo Ottavo, si sente qualche volta nominare a livello di locale. Come spiega Stecco nell'articolo, appunto, stiamo vedendo con l'apporto di un processo innovativo nel progetto del Molo Ottavo, un allargamento delle infrastrutture sia a livello logistico sia a livello portuale. Logistica si intende oltre che naturalmente i camion, ecco, che portano i container, soprattutto ferroviario. E si sta avendo un enorme sviluppo, insomma, delle linee merci Trieste dintorni, cioè Trieste varie snodi, insomma, Courtois del Porto e con anche qui attori, insomma, soprattutto privati che hanno messo in piedi queste strutture già adesso e però hanno in prospettiva di espandersi. E soprattutto, dicevo appunto, la citazione che ho fatto prima, la lettura che ho fatto prima dell'estratto, parla di questo discorso del innovativo, della robotizzazione e del, insomma, della scomparsa del, sì, di questa piattaforma, cioè della comparsa di questa messa in piedi di questa piattaforma logistica completamente robotizzata, e là dove sorgeva appunto l'area a caldo della Ferriera. Questo è un primo fenomeno. Un secondo fenomeno che viene preso, insomma, più adesso stavo andando a ritroso nell'articolo, in conclusione a così un riepilogo della storia locale recente, insomma, da dove viene fuori questo porto che grandi, insomma, grandi cambiamenti, che grandi, quali grandi spostamenti ha provocato, quali mutazioni, insomma, urbane, urbanizzazioni varie, insomma, protagonismo della borghesia, lui non lo dice, ma insomma soprattutto italiana e non slovena, insomma più che altro italiana, inizialmente austriaca e anche sì, ungherese, poi a un certo punto c'è insomma la preponderanza degli italiani, per questo appunto che il cosiddetto irredentismo viene fuori. Boh, adesso non avventuriamoci oltre. Arriviamo ai primi anni 2000, dove è un dato di fatto che il porto arriva a uno scadimento, insomma, siccome è una parabola discendente rispetto, anche se parlate con i compagni triestini, insomma, vi nomineranno l'epoca d'oro in cui era presente, chiamiamolo tutto tra virgolette, presente lo Stato, insomma, direttamente nel porto, e quindi le condizioni di lavoro erano più che buone, e sì, non c'era dispersione, non c'era, c'era sicuramente sfruttamento, c'era però anche, insomma, più benessere, fra virgolette. Ecco, credo io questa cosa si concluda negli anni 90, dopo appunto il crollo dei vari muri di Berlino e appunto i conseguenti spostamenti di assi, per cui appunto c'è una progressiva decadenza con lui dice qui che praticamente loro c'era un ecco, una gestione così senza prospettiva, con piccole imprese che competono tra loro, con caporalato e subappalti, precarietà generale, poco interesse degli investitori, eccetera. Nel 2016 arriva, cade dal cielo, questo Zeno D'Agostino, un tecnocrate, un manager, e mette a posto tutto, insomma, razionalizza, mette fine a queste dinamiche qua di mala gestione, fa in modo di attirare, insomma, di avere più appeal verso gli investitori anche più grossi, soprattutto si comincia, insomma, comincia quella concentrazione di quella tendenza a concentrarsi, insomma, sia dei capitali sia delle dinamiche varie, insomma, che comunque porta conclusivamente a un miglioramento anche di condizioni lavorative, quindi a un sostrato, diciamo, del mito del portuale che c'è a Trieste. No, presente da secoli, da quando c'è il porto, e si aggiunge appunto questo culto della personalità per Zeno D'Agostino, al punto che quando nel 2020 viene così a galla per questioni ininfluenti adesso di destituire D'Agostino, i portuali scendono in piazza e in difesa del, fra virgolette, loro presidente, no? Presidente dell'autorità portuale. Tutto questo, ecco, è un'occasione per vedere sia qui con la destituzione, che poi appunto il TAR ritira questa decisione dall'autorità centrale e annulla il provvedimento, no? E quindi Zeno D'Agostino rimane in carica ancora fino a, non so, adesso era, mi sembra che siano già passati un po' di mesi che se n'è andato, ma comunque per questi anni, insomma, di crisi, insomma, di questa critica, più che crisi, insomma, di questa fase critica di passaggio che si è avuta, insomma, con questo processo di deindustrializzazione, con la chiusura della Ferriera, con lo smantellamento della Wärtsilä e contestualmente con l'apertura del Molo Ottavo, cioè con la, è ancora in costruzione, però insomma in prospettiva. In mezzo c'è stato anche un memorandum durante il governo Conte 1, Italia-Cina, sì, che c'erano i 5 Stelle, che insomma veniva fuori anche un po' una cosa un po' contraddittoria a livello di schieramenti, così militari, di alleanze militari dell'Italia, insomma, vabbè. Quindi tutti e due questi fatti qui, queste due vittorie, fra virgolette, del conseguite, cioè la conferma di Zeno D'Agostino all'autorità portuale e appunto l'avvio del processo di allargamento del Molo Ottavo, sono due vittorie del classe dei privilegiati. Sono due decisioni calate dall'alto. Nonostante questo, sono state, diciamo, sono passate attraverso un macchinario retorico per cui purtroppo, cadendo tra l'altro nel questo substrato, diciamo, destroide culturale, diciamo, generale, che ha un forte influsso nella città, sono stati vissuti come due vittorie popolari, purtroppo, no? Dice il compagno. E invece, stavo dicendo prima, croceristica all'inizio, adesso, fra pochi minuti possiamo avere gli sgoccioli dell'intervento. Diceva, quali sono i giocatori di questo cambiamento, no? I giocatori, abbiamo nominato la croceristica, per cui per chi non è Trieste, il traffico delle turistico delle crociere è stato spostato in seguito anche a delle proteste, lotte, insomma, durate anni, da Venezia, insomma, dal passaggio dei colossi del mare lì davanti, insomma, città lagunare a Trieste, e poi comunque il turismo viene spostato con mezzi, diciamo, prendono il treno o altro, quindi voi andate in fine settimana praticamente tutto l'anno a Trieste, il venerdì, sabato, domenica, e praticamente in certi così contesti è quasi impossibile camminare, perché è invaso da persone che vengono, insomma, abbienti anche, ma non particolarmente, dei disperati, comunque degli imperi superiori all'impero italiano, insomma, imperi più potenti, più che ci schiacciano con la loro potenza. Che sono, insomma, inglesi, eccetera, statunitensi, australiani, boh. Croceristica, deindustrializzazione, un'altra cosa che hanno ottenuto questi, cioè un'altra cosa conseguita da dai, abbiamo detto, dai privilegiati, cioè dalla classe borghese, chiamiamola, ma classe di privilegiati che ha interesse, tutto interesse a tutelare i suoi privilegi, mantenerli tali, se possibile aumentarli, e anche l'immunità penale ottenuta per chi lavora all'ICGB, cioè al laboratorio che c'è dentro l'area scientifica sincrotrone. È passato sotto il nostro discorso, ma noi ne abbiamo parlato lungamente, in particolare circa, insomma, un anno fa, era anche così in, erano tempi diversi, insomma, c'era anche un po' più di sensibilità, probabilmente abbiamo un po' lasciato perdere anche noi il discorso, ma bene o male lì non è che c'era molto da, sì, i fatti erano quelli che abbiamo detto noi, non si è smosso, però ricordate benissimo che c'è questo, insomma, c'è stata questa sì, questa cosa inaudita, che dentro un laboratorio dove nessuno sa cosa succede, vengono fatte sperimentazioni a livello di manipolazione, insomma, genetica, cose che noi non abbiamo minima idea di cosa sia, succeda lì dentro, anche perché non è nostra possibilità saperlo, e è stata prevista l'immunità penale per chi ci opera, ovvero anche se commette diciamo, chiamiamoli crimini, giocando appunto con l'ingegneria genetica, con i virus, con la biotecnologia, nel centro sincrotrone, ripetiamo che si trova immediatamente alle spalle della città, dove appunto ci sono grossi investimenti finanziari, i pezzi grossi, insomma, del mondo, insomma, che investono su questa questione, e c'è prevista immunità penale. Tutto questo è passato nel silenzio, è l'ennesima decisione presa dall'alto. Ecco, boh, qui mi fermo, ribadisco, insomma, davvero vale la pena, specialmente per chi qua conterraneo, insomma, del compagno, meditare, insomma, e non solo, vedere anche che cosa, insomma, come risuonare che la sensibilità cosa ci dice rispetto a tutto questo serie di questioni messe, squadernate così dal compagno, sempre con la capacità che ha, insomma, di analisi e di anche di sintesi, anche di dare la spinta, dare non solo appunto a livello così emotivo, ma anche in maniera meditata, in maniera secondo me anche inattaccabile, anche fuori dai denti, anche, ripeto, al di là di ogni programma di lotta, di ogni piattaforma, di ogni linea così leninista o non leninista, o che ne so, appunto, altre cose anche di casa nostra, ecco, di più domestiche. I giorni e le notti, veramente vale la pena. Stiamo ascoltando il Flic dans la tête, sono pezzi tratti da un CD uscito nel 2015. E prima, durante gli altri interventi, abbiamo ascoltato un CD per intero, nella quale comparivano tre band che si chiamano Casamate, e l'altro gruppo si chiama ADT e l'altro è sempre un'altra sigla che si chiama GFT, e questi invece sono i Flic dans la tête della zona di Torino. La guerra comincia qui. Lo Stato italiano è complice delle guerre in corso. Oltre a finanziare i principali produttori La guerra comincia qui. Lo Stato italiano è complice delle guerre in corso. Oltre a finanziare i principali produttori Sì, un saluto anche da parte mia. Abbiamo provato, volevamo mandare così un minuto di chiamata, la chiamata appunto per la manifestazione, per il blocco del porto di Genova di martedì 25, fatta dai compagni appunto di là. Però per un motivo che non abbiamo capito, insomma, non si riesce a caricare, quindi non si riesce ad ascoltare, vabbè, pazienza. E, allora, inizio dandovi un po' la cronaca di quello che è successo, che insomma abbiamo ricavato da vari siti di movimento, e la mobilitazione appunto è andata bene, nel senso che c'è stata una grande partecipazione a questa mobilitazione contro la logistica di guerra. Si parla di un migliaio di manifestanti, che non è poco, e appunto la giornata, c'erano state altre giornate di mobilitazione contro la logistica di guerra il 10 novembre e il 23 febbraio, e quindi manifestazioni per fermare il massacro in Palestina e in solidarietà con la resistenza palestinese, ma e anche in generale contro la guerra, contro i traffici d'armi e per una solidarietà internazionalista con gli oppressi palestinesi. E, allora, ci dicono le compagne e i compagni che martedì 25 giugno, a partire dalle ore 6 del mattino, appunto un gruppo eterogeneo con una componente di portuali e facchini, gruppo che ha raggiunto appunto il migliaio di persone provenienti da diverse città e vallate, si è riunito ostruendo il varco San Benigno, quindi si sono incontrati proprio lì e hanno ostruito questo varco, che è il varco commerciale, e poi il varco Etiopia, bloccando uno dei principali snodi logistici dello Stato italiano, da cui transitano anche le navi Zim e Bari, che riforniscono di armi e munizioni allo Stato israeliano responsabile del genocidio a Gaza. Le manifestanti e i manifestanti hanno poi attraversato le strade della città, bloccando la tangenziale e ribadendo con cori e scritte la responsabilità che lo Stato italiano ha nei confronti del genocidio del popolo palestinese, delle guerre in corso, in primis in Ucraina, e della repressione dei nemici interni. E il corteo voleva raggiungere e bloccare anche il varco Albertazzi, che era però presidiato dai corpi di polizia e che di fatto è stato chiuso dalle stesse camionette della polizia, reso inaccessibile al corteo, ma comunque bloccato. Quindi il corteo ha deviato il suo percorso e ha proseguito verso una sede genovese di Leonardo, dove si trova il supercomputer Da Vinci, un supercomputer che viene utilizzato per la mobilità militare nell'ambito dell'accordo tra la rete ferroviaria italiana e appunto l'azienda Leonardo S.P.A., di cui poi dopo parleremo più in dettaglio. Più di una pietra è volata sul palazzo e ora sui muri nei suoi pressi si legge la sua complicità con le guerre, che il corteo ha riassunto con scritte come Leonardo assassina e con cori come contro la guerra dobbiamo lottare, bloccare tutto e disertare, fiocchi Leonardo, Fincantieri, assassini oggi come ieri. Il corteo si è infine riunito a coloro che bloccavano il varco Etiopia per poi proseguire per il varco San Benigno e dirigersi intorno alle 17 verso la stazione Principe, presidiata da altri elementi del corpo di polizia. Quindi una manifestazione molto lunga, appunto dalle 6 di mattina fino alla sera. E ci dicono le compagne e compagni, è la prima volta che si è riusciti a chiudere per una giornata tre dei quattro varchi del porto, bloccando le principali arterie di Genova e creando un grosso danno economico ai padroni della logistica e della città. Il corteo si è disperso forte di questa consapevolezza, con la chiara intenzione di costruire ulteriori momenti di lotta al più presto, insomma. E, sì, quindi questa importante giornata, magari mettiamo ancora un po' di musica e poi vorrei leggervi anche un, così almeno dei pezzi di un volantino che indiceva questa giornata, che approfondisce anche un po' la faccenda del porto di Genova. Ecco qui, vi leggo quindi il volantino dell'Assemblea Sabotiamo la Guerra. E, martedì 25 giugno, ore 6, Genova, Varco San Benigno, fermiamo la logistica di guerra, blocchiamo il porto di Genova. I porti sono snodi fondamentali della macchina bellica. In Italia, quello di Genova è al centro degli interessi economici di quei settori padronali, israeliani, sauditi, europei, che lucrano sulle guerre. La logistica è un settore economico indispensabile per rendere possibile la guerra. Bloccare un varco portuale, un corridoio ferroviario, la costruzione di un ponte, significa interrompere la continuità di una società mortifera, aprire una crepa per arrivare a bloccare tutto. A Genova transitano le navi delle compagnie ZIM e Bari. La ZIM è la compagnia marittima della più grande holding israeliana, la Israel Corporation, e trasporta armi per Israele, subendo il boicottaggio in molti porti nel mondo. La Bari Line è una compagnia di navigazione saudita che trasporta armi utilizzate anche nella guerra dello Yemen. In seguito alle mobilitazioni e ai picchetti, a Genova non si sono caricate armi tra il 2019 e il 2023 sulle navi della Bari, nonostante abbiano continuato a transitare e attraccare al Genoa Metal Terminal. Sempre in Liguria opera anche la Maersk, con una piattaforma dedicata al Vado Gateway di Vado Ligure. La Maersk è la più grande compagnia marittima al mondo, è danese, è coinvolta nel traffico d'armi made in Italy, prodotte dall'azienda Leonardo. Le armi che i suoi container trasportano sono utilizzate da Israele contro il popolo palestinese. La MSC, principale competitor della Maersk, presente anch'essa in questa regione, trasporta su alcune delle sue navi tecnologia militare. Un blocco effettuato recentemente dai portuali greci ha impedito l'attracco ad Atene della nave MSC Alter, carica di armi verso Israele e diretta al porto italiano di Gioia Tauro. In seguito al blocco navale attuato dalle forze yemenite e Houthi nel Mar Rosso, le navi degli stati che collaborano al genocidio del popolo palestinese hanno dovuto modificare le rotte commerciali, con un ingente aumento dei costi ed una diminuzione del quantitativo di merci scambiate. Il notevole danno economico non è però pagato da compagnie come Maersk, che anzi hanno aumentato i loro profitti. Nel circuito mondiale della logistica, la connessione tra trasporti civili e militari è tale da rendere indistinguibili questi settori. La mobilità militare rappresenta uno degli architravi della politica estera e di conseguenza comune e di, scusate, della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea. Conseguentemente tutti i corridoi di comunicazione europei sono progettati assecondando esigenze militari della NATO e sono funzionali alla guerra. Military Mobility, programma della NATO e Unione Europea, lanciato nel 2018, ha lo scopo di incrementare la velocità e la capacità di spostamento delle forze armate europee attivabili in caso di conflitto. La Liguria è coinvolta in questo programma con il collegamento ferroviario Genova-San Pier d'Arena, fuori muro, il porto di La Spezia e il tronco autostradale della 7 Milano-Genova. Inoltre, la collaborazione tra Leonardo e RFI prevede una mobilità militare per il trasporto di materiale sulla rete ferroviaria, che avverrà in condizioni ordinarie e straordinarie e che utilizzerà infrastrutture dual use, cioè i binari e gli impianti del normale traffico passeggeri e merci. Il controllo e la supervisione di questi traffici sono gestiti da Leonardo attraverso tecniche avanzate di intelligenza artificiale e al supercomputer Da Vinci, che si trova anch'esso a Genova. La complessità del settore logistico, la sua estensione e l'intreccio di interessi che lo contraddistingue ci portano a considerare che il fine del blocco non è tanto fermare una singola nave, quanto far pagare un prezzo per la collaborazione al funzionamento della macchina bellica. Se i tentacoli della logistica di guerra si estendono e si mimetizzano sul territorio ogni giorno, se i tentacoli della logistica di guerra si estendono e si mimetizzano sul territorio, ogni giorno e ogni luogo sono utili per colpirla. Di fronte alla catastrofe totale di una guerra sempre più estesa, è necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili nella cassetta degli attrezzi degli sfruttati. Se il singolo blocco produce un danno immediato a dei padroni, è solo estendendo il blocco all'intera produzione e circolazione delle merci e all'ordinato funzionamento dell'organizzazione sociale che si può pensare di sabotare la guerra. Sostenere la causa degli oppressi palestinesi attraverso l'attacco contro lo Stato di Israele e i suoi padrini, che sono anche i nostri diretti oppressori, spezzare le collaborazioni tra il nostro Stato e i massacratori del popolo palestinese, ci pare non un contributo, ma un antidoto all'allargamento del conflitto. Israele ha il potere di fare quello che fa perché è la testa di ponte del blocco capitalista occidentale in Asia occidentale. Per questo una mobilitazione all'interno dei paesi occidentali, che arrivi a mettere in crisi il normale funzionamento della macchina capitalista e raggiunga i caratteri della sollevazione, può seriamente contribuire a fermare la guerra e il genocidio. Una mobilitazione contro la guerra che tenga insieme le lotte operaie portate avanti da portuali, ferrovieri e macchinisti addetti al settore cargo e che paralizzi l'infrastruttura logistica della macchina bellica. Uno sciopero che, a partire dalle condizioni di sfruttamento attuate nella riorganizzazione di un'economia di guerra, diventi quello sciopero generale in grado di mettere realmente in discussione l'ordine delle cose. In questo senso, la salvezza degli oppressi palestinesi fa tutt'uno con la nostra, con quella di tutti gli esclusi e le escluse macinate ogni giorno nella giostra del profitto, con quella delle persone che dimostrano la totale sfiducia nelle istituzioni e che hanno di fronte la concreta possibilità dell'azione diretta. Lo Stato italiano sostiene il genocidio del popolo palestinese e la guerra in Ucraina, dove si superano costantemente linee rosse verso l'apocalisse nucleare. A noi far pagare i costi della guerra. Il dominio ha bisogno di ristrutturare l'intera società per prepararla a questa catastrofe. Ciò significa aumento dello sfruttamento, del controllo e della repressione. Opponiamoci a tutto questo sottraendoci alla mobilitazione militare e alla mobilitazione delle coscienze, alla militarizzazione delle nostre vite, della società, dei territori in cui viviamo. Alla propaganda bellica opponiamo la solidarietà internazionale. I soldati dall'altro lato della trincea sono nostri fratelli. Il nemico è in casa nostra, siede nei palazzi dei ministeri, nei consigli d'amministrazione delle multinazionali, grida ordini da dentro le caserme. Contro di loro bisogna combattere. Trasformiamo la guerra dei padroni in guerra contro i padroni. Blocchiamo la logistica di guerra, qui ed ora. Ecco, e mentre le compagne e compagni a Genova appunto hanno portato avanti nella giornata di martedì 25 giugno questa importante mobilitazione contro la logistica di guerra e questa azione appunto di blocco e di diserzione da questa società mortifera che è sempre più pervasiva, che in cui siamo immersi, anche qui nella nostra zona è stato fatto qualcosa, e cioè un volantinaggio di controinformazione proprio su questo patto maledetto tra Rete Ferroviaria Italiana e Leonardo S.p.A. Per il trasporto ordinario e straordinario di armamenti e di insomma tutto ciò che riguarda diciamo la guerra, e mezzi, armamenti e probabilmente anche militari sulle linee, sugli stessi binari diciamo lungo i quali appunto transitano i treni passeggeri e merci civili. E appunto è stata fatta questo volantinaggio di sensibilizzazione in varie stazioni e niente, magari appunto adesso vi proponiamo anche il testo che è stato diffuso. Aprile, Leonardo S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la Military Mobility, iniziativa UE volta ad aumentare e assicurare gli spostamenti militari all'interno e all'esterno dell'Europa. Con questo accordo, Leonardo, azienda assassina e senza scrupoli, produttrice di armi ultratecnologiche e letali anche a conduzione remota, presente anche qui in regione a Ronchi di Monfalcone, Leonardo dunque gestirà una piattaforma digitale integrata dedicata proprio alla gestione del trasporto di materiale bellico attraverso le reti RFI, le stesse che utilizzano i passeggeri e che sono ufficialmente diventate infrastrutture dual use, civile e militare. È dal 2018 che l'UE spinge nel promuovere progetti per migliorare la viabilità militare. Significativo il fatto che i finanziamenti dedicati alla viabilità di guerra coinvolgano le infrastrutture che collegano i porti. A livello locale ci interessa perché i potenziamenti avvengono per velocizzare i collegamenti con il porto di Trieste, in cui è noto l'approdo di navi, porta container, cariche di armamenti. Altro esempio significativo è il rinforzo del nodo ferroviario del porto ipermilitarizzato di La Spezia e quello di Genova. Ci stanno trascinando nel baratro della guerra, una guerra che verrà combattuta qui, in Europa, e che combatteremo noi, esclusi, per gli sporchi interessi di lobbisti, militari, industriali, ricchi, tecnocrati, politici, statisti, tecnici, scienziati. E quando da bambino guardavo quei giganti e mi nascondevo nell'ombra respirando il loro profumo, mi nutrivo dei loro colori e quel freddo tepore mi accorgevo di vivere. Guardavo quei giganti e mi nascondevo nell'ombra respirando il loro profumo, mi nutrivo dei loro colori e quel freddo tempore mi accorgevo di vivere. Cosa mi rimane? Cosa mi rimane? Stavo cancellando i segni della mia esistenza a poco, senza tregua. Mi lascio oltre il grigio signori della guerra stanno cercando di normalizzare il fatto che le attività militari occupino e si mescolino a quelle civili. L'abbiamo visto in passato nella gestione dell'emergenza sanitaria e lo vediamo ora anche con il patto per la military mobility. Le stesse linee che utilizziamo tutti i giorni saranno adoperate per circolazione di soldati e sistemi di morte e senza più destare scandalo. Questo utilizzo dual use delle ferrovie, oltre a essere inaccettabile dal punto di vista morale, significa anche però che, oltre agli orridi convogli dedicati esclusivamente al trasporto di armi e di truppe, avremo treni che potranno essere adibiti in circostanze normali e o eccezionali ad uso civile o militare con grande facilità. Con l'accordo tra Leonardo ed RFI, viaggiare in treno diventerà sempre più pericoloso per la probabilità di incidenti e perché qualsiasi trasporto ferroviario potrebbe diventare un bersaglio strategico e se diventerà normale l'interscambiabilità tra civile e militare, a rischiare per l'interesse dei signori della guerra saranno principalmente chi le utilizza quotidianamente, ovvero chi ci lavora e di passeggeri. Quando oggi parliamo di imperialismo, parliamo di rivoluzione scientifico-tecnologica, che in qualche anno avrà il suo punto di non ritorno, un'esplosione di intelligenza con dilagare dell'intelligenza artificiale nei processi di decisione. Il paradigma portato avanti da stati moderni e capitale potrebbe portare in breve a un nuovo mondo che scalzerà l'umanità come specie, annichilendo la vita sul pianeta. Questo processo autodistruttivo non è affatto inevitabile e possiamo fermarlo con la lotta. Servono a niente se nessuno si può ascoltare e muovermi senza pensare alle parole. Le parole non servono a niente se nessuno si presta a cantare. Vedi improvviso la polvere soffiata da un vento maestrale. Vedi improvviso la polvere mi taglia la pelle e fa male. Lo sguardo sospeso nel vuoto è un'ossessione. Il corpo sospeso nel vuoto è un equilibrio instabile. Lo sguardo attraverso il mio corpo è un'illusione. Ancora sospeso nel vuoto, nel vuoto, nel vuoto. Mi basta pensare che ci sia un artefice, uomini fili di una vita che mi basta pensare ci sia almeno un complice che si muove attraverso me. A volte pensare che tutto sia semplice e saltare nel buio che sia. A volte pensare improvviso la polvere soffiata da un vento maestrale. Vedi improvviso la polvere mi taglia la pelle e fa male. Vedi improvviso la polvere mi taglia la pelle e fa male. Eh sì, allora prima di salutare ci tenevo a dire ancora una cosa che riguarda invece il territorio di Venezia, cioè ricordare questo manifestazione corteo che c'è stato domenica 23, e un corteo lanciato dalla San Sebastiano occupata dall'università, che è occupata dal 13 maggio e che studentesse e studenti non intendono disoccupare, anzi vanno avanti con l'occupazione e invece hanno deciso appunto di alzare il tiro e non di ritirarsi. Hanno fatto questo corteo importante perché hanno allargato il discorso della solidarietà alla resistenza palestinese verso l'opposizione alla guerra, quindi hanno messo a fuoco, hanno precisato diciamo questo fatto. È importante perché sono passate e passati, il corteo è passato, ha fatto praticamente da Piazzale Roma fino a Rialto, quindi passando per il centro storico, il flusso di turisti e la Smart City che ormai è diventata Venezia, e quindi hanno cercato di portare questi contenuti radicali, insomma una critica alla guerra, critica anche alla gestione automatizzata della città, questa questione del controllo delle entrate e delle uscite dei varchi appunto tipici della Smart City, e anche queste faccende legate alla guerra energetica. E quindi hanno cercato di tenere unite, di unire un po' tutti i tasselli e di portarli in maniera diffusa nella città. E, ecco, e una cosa importante, ci tengo a dirla, che hanno voluto anche passare a fare un saluto al carcere di Santa Maria Maggiore, un saluto ai reclusi, e hanno ricevuto, e appunto una compagna, insomma, che raccontava questa esperienza, diceva che appunto come studenti e studentesse non c'è magari tanta così familiarità, diciamo, con il rapporto diretto con le persone prigioniere nelle carceri, ma è stata una cosa molto molto molto forte, diciamo, molto importante il tema quindi hanno tirato in ballo anche il tema del carcere, e c'è stata da dentro, insomma, una forte risposta, un forte saluto e una forte solidarietà alla resistenza palestinese anche da dentro. Quindi, insomma, anche questo fatto è stata una giornata importante, appunto, per la lotta e per fare di tutto per trasformare la guerra dei padroni in guerra contro i padroni. In sottofondo ci stiamo ascoltando i Labile, band bergamasca, l'album si intitola Come il tempo ed è uscito nel 2010, mentre prima, tra gli interventi precedenti, abbiamo ascoltato i Wolf Brigade, l'album si intitola Progression Regression. Ma anche i Flick Dalla Tet, ma li avevo già presentati prima. E siamo giunti al termine del programma e ci ascolteremo ancora un brano, penso due. Intanto vi leggo i contatti se volete scriverci. Allora, l'indirizzo di posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, mentre il contatto cartaceo è associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Mentre se volete riascoltarvi questa puntata o anche quelle precedenti, c'è un blog e l'indirizzo è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Vi lascio ancora mettiamo qualcos'altro, ascoltiamoci un po' di mettiamo una voce femminile, dai, ascoltiamoci le Bikini Kill. Intanto metto il brano Double Dare, yeah. Se abbiamo ancora tempo ci ascoltiamo anche Suck My Left One, se no niente. Ciao! Okay, sorry. Okay, we're starting now. Yeah. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls, don't!